Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, di Federico Pedrocchi e Simona Regina. Ciao Simona. Ciao Federico, buonasera a tutti e tutte. Allora vi racconteremo di ciò: si può evitare di avere delle mucche che hanno dentro un sacco di antibiotici? Si può fare. E vi spiegheremo perché. E poi parleremo di clisteria al caffè e altre bufale in medicina. Si è andata direttamente al punto. Perfetto. E poi sta per arrivare la fiera di Parma SPS, dedicata a meccatronica, meccanica e ovviamente a 4.0, un evento importante. Vi raccontiamo un po' di cose. Federico, sai che l'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, ha chiesto a circa 3.000 consumatori di 12 paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, che idea avessero dei rischi per la salute umana connessi all'antibiotico resistenza negli animali da allevamento. L'indagine, da un lato, ha messo in luce che i consumatori non sono informati del problema della resistenza agli antimicrobici, dall'altro che circa il 70% pensa che non si faccia abbastanza per controllare o prevenire la uso di antibiotici negli animali da allevamento, mentre veterinari e allevatori, anche loro coinvolti in questa indagine, riferiscono di aver osservato un calo nell'efficacia degli antibiotici, in particolare in suini e pollame. E qui con noi questa sera Bartolomeo Biolatti, veterinario, ma è anche presidente della Società Italiana delle Scienze Veterinarie. Buonasera Biolatti. Buonasera. Buonasera a voi. Abbiamo anche Marco Pedroni, presidente delle COP, perché quello di cui stiamo discutendo ha molto a che vedere con un'iniziativa dei supermercati COP. Buonasera Pedroni. Buonasera. Allora Biolatti, abbiamo delle proiezioni sul 2050 che ci dicono? Ci sono degli studi che destano un po' di preoccupazione nei confronti della antibiotico resistenza, perché sta aumentando e si pensa che sia la conseguenza di un uso eccessivo degli antibiotici sia in campo umano sia in medicina veterinaria per quanto riguarda principalmente l'allevamento degli animali. Fanno sempre meno effetto, questo è il problema. Fanno sempre meno effetto perché i batteri, che sono il target, l'obiettivo degli antibiotici... Motivo per cui ricordiamo che gli antibiotici non ha senso assumerli quando si ha un raffreddore, cioè gli antibiotici sono antibatterici. Soltanto quando c'è la complicazione batterica ha senso usare gli antibiotici, quindi certo, deve essere un uso razionale e prudente. Attenti. Ecco, però Biolatti, il problema è che negli allevamenti si danno a priori agli animali. Ecco, negli allevamenti gli antibiotici sono usati a scopo profilattico, preventivo. Allora, se vogliamo cambiare questa brutta abitudine, come devono diventare gli allevamenti? Ecco, l'obiettivo è di ridurre l'uso degli antibiotici e non di abolirli, perché sappiamo che ne abbiamo bisogno. Occorre implementare le buone pratiche di allevamento, elevare i livelli di biosicurezza applicati nell'allevamento. Sono strumenti che servono per impedire alle malattie di entrare nell'allevamento. Come deve diventare l'allevamento? Con più spazio, meno animali, com'è che si fa? Bisogna evitare il sovraffollamento, perché se mettiamo troppi animali in uno stesso ambiente ci saranno dei problemi di un'eccessiva produzione di gas tossici. Pensiamo alle deiezioni, dall'urina si sviluppa l'ammoniaca è un gas irritante e quindi irrita il sistema respiratorio e gli animali si ammalano più facilmente delle forme respiratorie. Quindi meno animali, spazi più grandi anche. Spazi più grandi, ci sono dei parametri, basta seguirli, per questo parlavo di formazione, quindi anche questo. Poi ci sono diverse regole, bisogna impedire agli estranei di entrare negli allevamenti perché possono portare dei germi. Bisogna adottare una buona gestione degli animali, ad esempio anche semplicemente quando si fanno entrare gli animali in allevamento ci sono dei sistemi chiamati tutto vuoto, tutto pieno, cioè prima si svuota l'allevamento, si pulisce, si disinfetta, si lascia qualche tempo vuoto in modo che si liberi dagli agenti infettivi che potevano essere all'interno dell'allevamento, e poi si mettono gli animali nuovi. Certo, ma se un animale si ammala, cosa succede? Bisogna portarlo via? Se l'animale si ammala, bisogna separarlo dagli altri animali. Questa è poi in certe filiere quotidianamente si trovano degli animali morti. Pensate agli allevamenti avicoli dove ci sono migliaia di polli, eccetera. Però non abbiamo toccato un aspetto, cioè che riguarda quello che gli antibiotici di fatto vengono utilizzati anche per promuovere una crescita più veloce, quindi anche questa pratica deve essere disincentivata. Allora, questo è un fenomeno mondiale. Gli antibiotici da parecchi decenni sono utilizzati come promotori della crescita a dosaggi più bassi, a dosaggi che vanno da un decimo a un centesimo della dose terapeutica. E l'effetto è positivo sulla crescita, sull'indice di conversione. Gli animali stanno meglio, crescono meglio. Però questo fenomeno ha delle pesanti ricadute sull'antibiotico, sullo sviluppo dell'antibiotico resistenza da parte dei batteri. La comunità europea se ne è accorta e ha proibito questa pratica sin dal 2006. Negli altri paesi però è ancora attiva, quindi come dicevo è un problema mondiale e le organizzazioni internazionali, le organizzazioni mondiali raccomandano di proibire questa pratica. Senta, invece la pratica della vaccinazione può essere utile appunto per ridurre l'uso massiccio degli antibiotici negli allevamenti? Altro che, questo è uno strumento di prevenzione fondamentale, occorre vaccinare, fare dei piani vaccinali in tutte le filiere, ci sono dei piani vaccinali che consentono via via di ridurre la presenza di questi batteri patogeni negli allevamenti. Grazie Biolatti, passiamo a Marco Pedroni. Marco Pedroni, va bene, non si può che fare i complimenti a questa iniziativa COP che ha deciso di fornirsi solo da allevamenti che, come ci ha spiegato Biolatti, saranno impostati in quel modo. Però c'è una domanda che credo poi a chi ascolta verrà fuori immediatamente, e cioè, vabbè, allora cosa succede? C'è una grande catena che usa questo, che sceglie questa strada, e però poi tutte le altre, non so, dico, vi siete confrontati, cioè bisogna, non può esserci solo uno. Beh, intanto va detto che la nostra iniziativa, che siamo i primi ad assumere in queste forme, in queste dimensioni, perché già quest'anno sugli allevamenti degli animali che entrano nei nostri prodotti dimezzeremo l'uso degli antibiotici e pensiamo nell'arco di un anno e mezzo di arrivare a una riduzione intorno all'80%. Gli altri se vorranno copiarci, bene, mi sembra un fatto assolutamente positivo. Va anche detto che nel momento in cui si muove il primo distributore nazionale su un'iniziativa di questo tipo, è molto facile che i cambiamenti negli allevamenti, nei grandi allevamenti, siano così importanti e consistenti che anche altri saranno facilitati ad andare in questa direzione. E quindi come cambieranno le etichette? Scriveremo che quel prodotto viene da un animale che è stato allevato senza l'uso di antibiotici. Per alcune filiere, soprattutto quella dei polli, potremo fare questa cosa, quindi avremo un'etichetta che dice che l'animale è stato allevato senza l'uso di antibiotici fin dalla sua nascita. Per altre catene, quelle di animali che possono vivere anche 18-20 mesi, proviamo a pensare ai bovini, noi faremo un primo passaggio garantendo che negli ultimi 4-6 mesi l'animale sia stato allevato senza antibiotici. Ovviamente è un processo in progress, gli antibiotici non possono essere azzerati, ma si possono con buone pratiche ridurre moltissimo. Biolatti e Pedroni, vi ringraziamo per essere stati con noi, buona serata. Grazie a voi, buona serata. Buona serata e buon lavoro. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. A metà di aprile anche quest'anno c'è stato l'appuntamento a Bologna dedicato alla medicina, 4 giornate, sta diventando un appuntamento molto interessante e una delle cose più curiose. Un incontro, questo era il titolo, le bufale del web, ovvero i clisteri al caffè e altre incredibili storie. Protagonista Luigi Bolondi, direttore della scuola di specializzazione in medicina interna all'Università di Bologna, che è qui con noi questa sera. Buonasera. Buonasera anche a voi. Va bene, lei ci ha terrorizzato con questi clisteri al caffè. Scusi, servirebbero per che cosa? O meglio, vengono spacciati come utili per che cosa? Ma sono spacciati come utili per tante cose, come depurativi e per tutte le tossine che eventualmente si possono accumulare, ma soprattutto la cosa che preoccupa particolarmente è che vengono spacciati anche come curativi per il cancro. E questa è una delle tante proposte, se vogliamo dire fantasiose, ma che però destano una grande preoccupazione, che vengono fatte per malattie importanti come le neoplasie o anche altre situazioni. Ce ne dica qualcuno. Nel campo dei tumori si trova veramente di tutto e questo è preoccupante. Anche perché, se non sbaglio, ogni 15-20 anni salta fuori una cura improbabile per curare mali incurabili. Sì, se voi ricordate, ci fu proprio in Italia qualcosa che fece scalpore a livello internazionale quando ancora non c'era la rete, il web, ma i media si erano impadroniti di questa notizia, che era il siero Bonifacio, quello ottenuto dalle feci delle capre che, secondo il veterinario di Agropoli, appunto il dottor Bonifacio, non si ammalavano di cancro e che veniva inoculato ai pazienti che speravano così di risolvere il loro problema di neoplasie. Della cosa si interessarono, ma dal punto di vista critico, tutti i giornali del mondo e ci etichettarono come terzo mondo proprio perché certe terapie venivano propagandate in Italia come efficaci senza nessuna dimostrazione. Sì. La cosa poi si sgonfiò, poi dopo ce ne sono stati altri di episodi. So che si parla anche di veleno dello scorpione. Veleno dello scorpione, questa è una cosa in voga ancora adesso, ci sono viaggi della speranza che vanno a Cuba a procurarsi questo veleno di scorpione che è usato a Cuba da tanti secoli, ma con altri intenti antinfiammatori e così via, e che viene spacciato come curativo del cancro. O il bicarbonato. Il bicarbonato, questa è una storia dolorosa italiana, perché un medico romano sosteneva in maniera del tutto assurda che il cancro fosse un fungo e come tale proponeva una cura col bicarbonato, che peraltro è una terapia molto ridicola anche per le micosi, lo proponeva come curativo del cancro. Il problema è che questo medico, radiato dall'ordine dei medici di Roma, condannato più volte per truffa, continua a proporre in rete questa sua terapia. Stiamo parlando di Simoncini. Se voi vedete certi siti in rete e vedete il numero di persone che vanno a vedere questi siti, rimanete impressionati dalle decine di migliaia di persone che purtroppo cercano una soluzione ai loro problemi nel web. E il punto, Bolondi, che da una ricerca recente dell'Università di Maribor è emerso per esempio che circa l'80% delle persone si informa proprio sul web, e sul web, come diceva lei, troviamo di tutto di più e troviamo molti siti che fanno disinformazione. Il problema è proprio questo. Allora, che l'80% delle persone vada nel web a cercare informazioni è tutto sommato qualcosa di positivo, perché aumentare le conoscenze è sempre positivo. Il problema è quello della fonte di certe informazioni. Senta, Bolondi, il fenomeno delle bufale sul web è un fenomeno pericoloso, se ne parla sempre più spesso. Diamo alcune indicazioni, l'ABC praticamente, per riconoscerle, parlando di bufale nel campo della salute, perché tutto sommato c'è un copione che si ripete, quindi si possono drizzare le antenne. Allora, l'ABC fondamentale è cercare di capire qual è la fonte, per cui il cittadino dovrebbe distinguere quella che è il racconto di un'esperienza di qualcuno che crede in qualcosa rispetto a quella che è un'informazione ufficiale che deriva da studi rigorosi. Anche perché quello che avviene è che il singolo mette insieme delle coincidenze, no? Sì. E quindi non stavo bene, sono andato al Cervino, mi sono trovato al Cervino e anticancro, no? Noi lo vediamo, noi che facciamo i medici, che la coincidenza temporale fra due eventi viene sempre presa come rapporto causa-effetto. Così non è. Per dire che una cosa è stata causa di un'altra cosa che ha causato un certo effetto, la dimostrazione è ben più complessa, non basta la coincidenza temporale. Uh-huh. Per cui la persona che è stata meglio assumendo l'erba tale, o il decotto della nonna, oppure il veleno dello scorpione, non può attribuire a questa cosa immediatamente la virtù benefica. Certo, ci vogliono migliaia di casi sperimentali. Ci vogliono degli studi rigorosi, come dicevo prima, condotti su grandi popolazioni di pazienti che dimostrano come l'effetto in questione è veramente attribuibile al nostro intervento, al farmaco, a qualunque altro intervento. È il contrario dell'anedotica. L'anedotica sono i racconti, che non hanno nessun valore scientifico. Senta, tragedia. Luigi Bolondi, stanno emergendo aspetti molto interessanti, vorremmo continuare a farle alcune domande, ma se per lei va bene continuiamo sul blog di Mebius, sul sito di Radio 24. Buonasera. Va bene, buonasera. Arrivederci Bolondi, buon lavoro. A Parma il 23, 24 e 25 di questo mese, appuntamento annuale SPS, è la grande fiera che fa sempre il punto su manifattura meccatronica e ormai in questi mesi, negli ultimi due anni, anche Industry 4.0, che è il piano governativo, ma insomma la fabbrica intelligente e la rivoluzione 4.0. Ne abbiamo parlato con Giambattista Gruosso, che è docente di elettronica, informazione e bioingegneria al Politecnico di Milano, che a Parma cura un'intera sezione dell'appuntamento dedicato appunto a 4.0, e siamo partiti da questo tema, e cioè quello che si sta creando, insomma presentando come problema, e quindi bisogna trovare soluzioni, è l'interazione fra uomo e macchina in un'azienda, e gli abbiamo chiesto di dirci qualcosa partendo da questo tema. Sicuramente, diciamo, questa epoca è un'epoca in cui i cambiamenti anche sul modo con cui si produce sono tanti, e come giustamente accennava, il tema chiave oggi è mettere in relazione processi diversi e macchine diverse. Si parla tanto di sistemi ciberfisici, cioè sistemi che sono in grado di autoregolarsi prendendo informazioni dal mondo esterno. Bene, il primo esempio di sistema ciberfisico è sicuramente l'essere umano, che per sua natura lo è in maniera naturale. L'idea è quella di rendere sempre di più le macchine in grado di fare questo, ma senza dimenticare di relazionarsi. È importante relazionarsi con altre macchine, è importante relazionarsi con esseri umani. Un po', se uno vuole vedere un'immagine, è quella del, diciamo, lo stormo di uccelli, no? Dove i singoli individui di questo stormo di uccelli sono degli individui che hanno all'interno tutti i sistemi per autoregolarsi, però poi quando sono in relazione tra di loro raggiungono un obiettivo comune, che non è più l'obiettivo del singolo, ma è l'obiettivo appunto della squadra. Esatto, della squadra. Allora, l'idea principale è quella che oggi si parla tanto di robot collaborativi, dove la collaborazione tra robot viene vista o come collaborazione effettivamente tra robot diversi o collaborazione tra robot e macchine, ma non bisogna dimenticare che il tema principale è la collaborazione tra i robot e gli esseri umani, perché l'obiettivo è quello di far sì che i lavori pesanti, i lavori logoranti, i lavori particolarmente dannosi per l'essere umano vengano in qualche modo svolti da alcune macchine. L'essere umano però partecipa a questo lavoro portando il suo contributo di creatività, di intelligenza e di tutto quello che c'entra. Quindi la tendenza è quella di rendere delle macchine che siano degli strumenti avanzati in mano a esseri umani per svolgere operazioni particolarmente complesse. E perché lì che tipo di problema potrebbe venir fuori, tanto per avere un esempio, in un'area appunto produttiva dove c'è questa interazione con robot che portano pezzi, che intervengano in momenti della lavorazione, ma certo ci sono degli umani che presiedono a tutta la vicenda. Oggi un'immagine abbastanza interessante è quella di uno scultore che volesse realizzare un'opera d'arte, no? Oggi può avere in mano facilmente un robot e può indurre, accompagnando il robot a eseguire le lavorazioni che la sua creatività ha in testa, però evitando gli sforzi che lo scultore dovrebbe fare per asportare il materiale. Però questo porta a una serie di problematiche, perché è vero che io ho in mano il braccio di questo robot e quindi gli faccio compiere una serie di operazioni, ma un robot, per quanto possa essere lento nei movimenti ha una forza che è molto più grande della forza dell'essere umano, quindi deve imparare a non reagire verso l'essere umano con una forza tale da poter rompere eventualmente la persona che la sta manovrando. Certo, così sì. Come se io devo fare un'operazione ripetitiva sulla mia statua, io potrei istruire il mio robot a fare questa operazione, potrei allontanarmi e quindi il mio robot potrebbe continuare con la sua operazione, ma se io rientro nell'area di lavoro il robot si deve accorgere che io sono entrato, quindi deve modificare il suo comportamento per evitare di portare del danno. Certo. Ovviamente per esempio. Sì, di questo tipo di problemi a SPS si parlerà senz'altro, perché certo. In questo padiglione poi che è interamente dedicato a 4.0 verremo anche noi a vedere come funziona. Senta, un ultimo tema brevemente. Si dice, si narra intorno al 4.0 anche di un rischio che può essere quello, come dire, di digitalizzare tutto, poi dopo dire va bene, adesso io ho fatto tutto a 4.0, anche le toilette, buono, partiamo, facciamo, dovrebbe funzionare di per sé. È vero che bisogna capire fino a che punto utilizzare in una situazione specifica delle strategie 4.0 e non prenderle acriticamente? Ma sono gli ingredienti di una torta. Io non posso pensare di fare la mia torta solamente montando la panna. Io devo farla dosando sapientemente tutti gli ingredienti e avendo un obiettivo, che è quello, diciamo, della ricetta che voglio seguire. Oggi la digitalizzazione è un po' il sistema nervoso di questa trasformazione. Ci vuole, è necessaria, non può che esserci. Però se io creo il sistema nervoso senza creare lo scheletro su cui fare interagire questo sistema nervoso, senza creare quello che oggi si chiama l'ecosistema che c'è intorno, questo sistema nervoso ha poco senso di esistere, e lì probabilmente sarà anche un gioiello dal punto di vista delle capacità o delle performance, ma cioè, non farà niente, no? Qualche anno fa qualche attento analizzatore si è accorto sicuramente che sono stati alla portata di ognuno di noi degli oggetti che venivano chiamati palmari o similari, che qui facevano funzioni più o meno evolute come quelli di oggi. Bene, sono scomparsi dalla nostra memoria perché non c'era l'ecosistema, non c'erano le applicazioni, non c'era una strategia, quindi sono stati in qualche modo un oggetto che ha digitalizzato sicuramente molte cose dal punto di vista della office automation, però poi di fatto non esisteva intorno una strategia. Con l'avvento delle nuove generazioni di smartphone associate a quelli che oggi abbiamo in testa, è nato anche l'ecosistema e sono state le app l'ecosistema che hanno reso possibile ovviamente la digitalizzazione. Lo stesso avverrà nell'industria, cioè digitalizzare senza app, per fare una metafora, senza avere applicazioni, senza avere servizi, senza avere strategie, probabilmente farà cadere questo ecosistema in pochissimo tempo. Questo è tutto quello che avevamo da dirvi, però le ultime cose dille tu. Quindi a sabato prossimo, e naturalmente vi aspettiamo anche sul nostro blog, sul sito di Radio 24. Buona settimana a tutti. E a tutte.